Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow of Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Undicesima puntata. Nel 1962 compii 10 anni e mia nonna, che aveva raggiunto i 60, lasciò la scuola superiore femminile in cui insegnava dal 1936. Quando era stata assunta, la scuola, due baracche con il tetto di lamiera, contava 50 allieve. Durante la stagione dei monsoni era capitato spesso di insegnare stando con i piedi nell'acqua fino alle caviglie. A sentir lei, una volta il tempo era stato così brutto che una ragazza, durante una lezione di geometria, era riuscita ad arpionare un pesce con un compasso. Nei 2 decenni successivi, però, la scuola era diventata una solida istituzione e aveva acquistato un grande edificio nei pressi di Deshapriya Park. Negli ultimi 6 anni, la nonna ne era stata la direttrice. L'ultimo giorno di scuola ci fu una cerimonia d'addio a cui i miei genitori e io fummo invitati. Fu una cerimonia toccante, in qualche modo solenne. La Calcutta Corporation inviò una rappresentanza. Lo stesso fecero il Congresso e il Partito Comunista. Ci furono molti discorsi e un'allieva di ogni classe consegnò una ghirlanda alla nonna. Poi la rappresentante delle allieve, una delle sue predilette, tolse il telo che copriva il dono d'addio acquistato con una sottoscrizione. Era un grosso modello in marmo del Taj Mahal con una luce all'interno che poteva essere usato come lampada da tavolo. Anche la nonna fece un discorso, ma non riuscì a concludere perché si commosse prima di arrivare alla fine e dovette interromperlo per asciugarsi le lacrime. Quando cominciò a strofinarsi gli occhi con un grande fazzoletto verde, dovetti distogliere lo sguardo e scoprii con stupore che anche le ragazze intorno a me si stavano asciugando gli occhi. Provavo una forte gelosia. Avevo sempre considerato il fatto di amarla come un mio diritto esclusivo. Non sapevo come fronteggiare la scoperta che il mio diritto era stato calpestato da un'intera scuola. Più tardi ci venne servito un pasto nella sala del personale. Gli insegnanti le avevano preparato una sorpresa. Nel periodo della sua direzione, la nonna aveva deciso che ognuna delle allieve che sceglievano il corso di economia domestica doveva imparare a cucinare almeno un piatto tipico di una regione diversa dalla propria. Riteneva che fosse un buon metodo per far conoscere la complessità e la vastità dell'India. Per farle una sorpresa, il Dipartimento di Economia Domestica aveva deciso di offrirci un saggio dei risultati dell'iniziativa della nonna. Ho un ricordo preciso del primo giorno dopo il pensionamento. Passò l'intera giornata a buttar via vecchi documenti e carte che aveva ammucchiato in camera sua nel corso degli anni. La sera ci invitò a dare un'occhiata. Carte e documenti erano scomparsi e la camera era immersa nella delicata luce bianca del Taj Mahal. Era molto felice quella sera. Durante la cena, mentre ci raccontava divertenti aneddoti dei suoi primi anni di scuola, sorrideva davvero, un sorriso dolce e malizioso, non il sorriso tirato da direttrice scolastica al quale ci aveva abituati. Ma la sua felicità non durò a lungo. Prese a recarsi in visita alla sua scuola. Usciva nel pomeriggio e rientrava un paio d'ore dopo, impaziente di raccontarci le storie tremende sentite in sala insegnanti, di come la nuova direttrice volesse eliminare le aiuole di rose piantate da lei, pensate un po', per farne un campo da basket, di come quella sciagurata donna avesse insultato il povero signor Tal dei Tali durante una riunione del Consiglio degli Insegnanti e così via. Dopo una dozzina di quelle visite, la nuova direttrice telefonò a mio padre e gli disse che se non fosse riuscito a tenere sua madre lontana da scuola, avrebbe dato istruzioni agli uscieri affinché non la lasciassero più entrare. Non so che cosa le abbia detto mio padre, ma non ci andò più fino all'anniversario della fondazione. Dopodiché, per parecchie settimane, passò il tempo da sola, in camera sua. Una volta aprì la porta e la vidi seduta accanto alla finestra con lo sguardo fisso sulle mani a coppa. Richiusi subito. Sapevo che cosa teneva tra le mani. Il tempo. Grosse livide gocce di tempo. E sentivo l'odore fetido. La lasciammo stare da sola per un po' e presto riprese a trascorrere più tempo insieme a noi. La sera si sedeva vicino a noi con un libro o con una lettera che doveva finire di scrivere e parlava dei nostri parenti o del lavoro di mio padre, ma anch'io mi accorgevo che stava semplicemente sforzandosi. Era evidente che non gliene importava più. A parte ciò, i suoi occhi non avevano perso nulla della loro vivacità, né il suo passo aveva perduto ritmo o energia. «C'è qualcosa che si agita nella sua mente», mi sussurrò un giorno mia madre osservandola con gli occhi socchiusi. Glielo leggo in faccia. Dobbiamo stare attenti. Il 1962 fu un anno importante per noi. Un paio di mesi dopo che la nonna era andata in pensione, mio padre diventò direttore generale della sua azienda. Subito dopo la sua promozione, ci trasferimmo in una casa nuova di Southern Avenue, proprio di fronte al lago. Rispetto al nostro piccolo appartamento di Gole Park, la nuova casa mi sembrava immensa. Mi sembrava che ci fosse più spazio di quanto noi potessimo usarne. Camere al piano di sopra, camere al piano di sotto, verande, il giardino e anche un tetto grande abbastanza per giocarci a cricket. La cosa più importante, almeno per me, era che Montu e gli altri miei amici abitassero vicino. Infatti, la nuova casa era a pochi minuti da Gole Park. La presenza della nonna, avvolgente e placentale, si stava progressivamente ritraendo dal resto della nuova casa per rinchiudersi tra le quattro pareti della sua camera. Era la più bella della casa. Era molto grande e lungo le pareti si aprivano alte finestre con le persiane. I pochi mobili messi insieme nel corso degli anni sembravano sperduti in quello spazio come foglie sulla superficie di un lago. Continuavo a portarle qualche volta i compiti. Di solito entrando la trovavo seduta in poltrona davanti alla finestra aperta, piccola figura fragile, avvizzita, con gli occhi fissi sul lago. Prendevo una sedia e mi sedevo accanto a lei, sfogliando rumorosamente il quaderno per attirare la sua attenzione. Una sera in cui mi sembrava più assente del solito, in preda alla frustrazione, buttai lontano il quaderno. «Tam, perché guardi sempre fuori dalla finestra a quel modo? Non ti piace questa casa?» Mi diede un'occhiata stupita e un colpetto sulla spalla. «È una bella casa», mi disse sorridendo. «È una bella casa per un bambino come te». Poi le si disegnò sulla fronte una ruga e mordendosi le labbra aggiunse: «Sai, è molto diversa dalla casa in cui io e Maya siamo cresciute». «In che senso?» le domandai. Fu così che dopo mesi di serate tutte uguali mi raccontò della casa in cui era cresciuta a Dacca. È Era una casa assai bizzarra, cresciuta lentamente su se stessa come un alveare. Ogni generazione aveva aggiunto strati e superfici fino a quando era divenuta una piramide a gradinate, immensa e asimmetrica, abitata da un tal numero di rami della famiglia che anche il meglio informato di loro si confondeva sui rapporti di parentela. La loro parte di casa era piuttosto grande e nei ricordi più remoti della nonna molto affollata. A quell'epoca la loro era una grande famiglia unita, i cui membri vivevano e consumavano i pasti tutti insieme, i nonni, i suoi genitori, lei e Maya Debi, il suo Jetamoshai, il fratello maggiore di suo padre, con la famiglia composta da tre cugini pressappoco della sua età e da due zie nubili. Ricordava bene il nonno, anche se aveva soltanto 6 anni quando era morto. Era un uomo magro, dall'espressione arcigna, con una ruga permanente incisa sulla fronte. In sua presenza tutti, compresi suo padre e lo zio, parlavano sottovoce, a testa china e con gli occhi rivolti in basso. Ma quando usciva per recarsi al tribunale distrettuale dove esercitava la professione di avvocato, nella casa esplodevano i giochi rumorosi dei 5 cugini. Ogni sera le madri conducevano i 5 bambini nello studio del nonno, dove ognuno doveva recitare l'alfabeto, prima in bengali, poi in inglese, tenendo le mani protese in avanti con il palmo rivolto verso il basso, e il nonno batteva sulle nocche con il manico dell'ombrello ogni volta che commettevano un errore. Se piangevano, venivano picchiati sugli stinchi. Per quanto fosse terrificante, il nonno riusciva a tenere unita la famiglia. Dopo la sua morte, Jetamoshai, in qualità di figlio maggiore, si sforzò inutilmente di prenderne il posto. Era un uomo stravagante, Jetamoshai. In un certo senso era stranamente amabile, ma da altri punti di vista era ancora più terrificante del padre. Era più magro, innanzitutto, quasi cadaverico, e aveva occhi chiari e penetranti, profondamente infossati nel volto lungo e scarno. Inoltre aveva delle strane idee. Gli piaceva mangiare stando in piedi, per esempio, perché era convinto che fosse meglio per la digestione. Era solito dire che nessun animale digerisce meglio della mucca e, guardatele, mangiano in piedi. Era senza dubbio un eccentrico e i bambini avevano difficoltà a prenderlo sul serio. Dopo la morte di suo padre, pretese che i bambini recitassero ogni sera l'alfabeto davanti a lui, che stava seduto esattamente come il padre, con il manico dell'ombrello appoggiato sulle loro nocche. Tuttavia, pur avendo un aspetto arcigno quanto il nonno, aveva il buffo vizio di ascoltare emettendo uno strano soffio a labbra socchiuse, come un cavallo da traino quando è stanco. Perciò succedeva spesso che lei o Maya Devi scoppiassero a ridere a metà dell'alfabeto. Lui si infuriava e cominciava a bombardarli sulle nocche con una scarica di colpi, cui loro reagivano urlando a pieni polmoni. Allora lui perdeva la pazienza e li picchiava sugli stinchi. Le bambine di solito si divertivano moltissimo in questa esibizione. Infatti Jetamoshai non era forte abbastanza per far loro veramente male e per di più la sua faccia diventava assai comica quando era davvero arrabbiato. La mamma, invece, andava su tutte le furie. Non capiva che non intendeva essere cattivo, semplicemente non sapeva controllarsi. Succedeva sovente che per scusarsi con le bambine comprasse loro di nascosto dei dolci, halva e shandesh, ma la mamma non lo sapeva e nel giro di un mese dopo la morte del suocero smise di rivolgere la parola a Jetamoshai, a sua moglie e a tutta la famiglia. Non passò molto tempo e le cose peggiorarono ulteriormente. Le due donne cominciarono a sospettarsi a vicenda di favorire ciascuna i propri figli, di rubare per loro i bocconi migliori dalla dispensa comune. Nel chiuso delle loro stanze rimproveravano i mariti, accusandoli di essere deboli e incapaci di proteggere i propri figli. Ben presto anche i due uomini cominciarono a litigare, ma dal momento che erano entrambi avvocati, i loro litigi assunsero forme particolarmente tortuose, legalistiche. Si parlavano poco e invece si inviavano comunicazioni in carta da bollo. Mia nonna, essendo la maggiore, era sempre incaricata di consegnare quei messaggi e cominciò a temerli, perché doveva restare accanto alla sedia di Geta Moshai mentre li leggeva e li rileggeva finché le vene della fronte cominciavano a pulsargli per la collera. Le cose arrivarono a un punto tale che si decise di dividere la casa con un muro di legno. Non c'erano alternative. Ma la costruzione della parete si rivelò tutt'altro che facile. Infatti i due fratelli, insistendo sui rispettivi diritti con precisione da legulei, esigevano che la divisione fosse assolutamente esatta. Quando la parete fu finalmente costruita, si resero conto che passava proprio in mezzo a due porte d'ingresso che nessuno avrebbe più potuto utilizzare. Attraversava anche un gabinetto, tagliando in due un vecchio lavandino. I due fratelli arrivarono a sezionare persino la targa con il nome del padre. Fu divisa in due parti con una sottile riga bianca e i loro nomi vennero incisi sulle due metà in caratteri così piccoli che nessuno riusciva a leggerli. Discendevano da una stirpe notoriamente litigiosa. Al culmine dei litigi, tutti avevano desiderato la divisione della casa, ma adesso che era avvenuta e ogni famiglia si era trasferita nella propria metà, si accorsero che sulla casa era piombato un silenzio strano, inquietante. Non era più la stessa. Sembrava che la vita se ne fosse andata. Per la nonna fu più difficile che per Maya Debbie, perché si ricordava di quando le cose erano diverse. Spesso guardava i cugini dall'altra parte ed era curiosa di loro, ma ormai c'era una tale asprezza nei rapporti fra le due famiglie che non osava rivolgere loro la parola. Tuttavia, quelle stesse donne, la madre e la zia della nonna, le cui vite si erano probabilmente accorciate di parecchi anni a causa dei malumori accumulati, divennero strettissime, seppure silenziose e alleate, quando si trattò di combinare i matrimoni delle figlie. Per esempio, la zia aveva avuto un ruolo centrale nel combinare il matrimonio di Maya Debbie con il Shaheb. La nonna si era sposata 4 anni prima di Maya Debbie. Il nonno era ingegnere delle ferrovie in Birmania e la nonna trascorse i primi 12 anni di vita coniugale nelle residenze riservate ai dipendenti delle ferrovie in una serie di città dai nomi fiabeschi come Molemen o Mandalè. In seguito, però, le restò solo il ricordo di ospedali, stazioni e società bengalesi. Null'altro di quella incantevole terra di pagode le sembrò abbastanza reale da doverlo ricordare. Mio padre era nato a Mandalè nel 1925. La nonna lo portava ogni anno dai suoi genitori a Dhaka per un paio di mesi. La casa era molto più vuota perché i suoi 3 cugini, 2 maschi e 1 femmina, si erano sparpagliati in varie regioni del continente. Dopo che Maya Debbie si era sposata ed era andata a vivere a Calcutta, nella casa erano rimasti soltanto quei 4 vecchi, lo zio, la zia e i suoi genitori. Ormai avevano ben poche occasioni per litigare, ma il tempo non aveva attenuato l'antica amarezza. La nonna faceva quel che poteva per far loro dimenticare il passato, ma erano ormai così radicati nelle abitudini prodotte da decenni di ostilità che nessuno di loro era disposto ad avventurarsi nel limbo della riconciliazione. Si erano affezionati al muro, era diventato parte di loro. I miei bisnonni morirono a distanza di pochi mesi l'uno dall'altra, quando mio padre aveva 6 anni. La nonna non fece ritorno a Dhaka che 2 volte dopo di allora, e solo per verificare che le stanze che lei e Maya Debbie avevano ereditato fossero integre. In quelle 2 occasioni decise di oltrepassare il muro e parlare con lo zio e la zia, ma la casa era così piena di ricordi dolorosi che tutte e due le volte tornò frettolosamente a Mandalè dopo aver passato a Dhaka soltanto un giorno. Nel 1935 mio nonno prese l'influenza mentre sovrintendeva i lavori per la costruzione di una conduttura sotterranea nella zona delle colline di Arakan. Morì di polmonite prima che potessero riportarlo a Mandalè. La nonna aveva 32 anni, non aveva nulla da parte e non aveva mai lavorato in vita sua, il che non fece che renderla più determinata a mandare suo figlio a scuola e all'università. Per fortuna aveva conservato il certificato del diploma di storia conseguito all'università di Dhaka. Grazie a quel pezzo di carta, un amico funzionario delle ferrovie riuscì a trovarle un lavoro in una scuola di Calcutta, quella dove avrebbe insegnato per 27 anni. Per qualche anno non ebbe tempo di tornare a Dhaka. Poi, nel 1947, ci fu la partizione e Dhaka divenne la capitale del Pakistan orientale. Non si poteva neanche pensare di tornare laggiù. Non ebbe più notizie di Jetha Moshai e della zia. In quegli anni, quando viveva a Calcutta, in un appartamento di una sola stanza, le capitava spesso di pensare a Dhaka, alla vecchia casa, i genitori, Jetha Moshai, la sua infanzia, tutte cose a cui si pensa quando si ha la sensazione che la parte migliore della vita sia già passata. «Lo sai?» mi disse, guardando oltre il lago con un sorriso, «in tutto quel tempo rimpiansi davvero una sola cosa di Dhaka. E che cosa?» domandai. Si mise a ridere. Quando la casa fu divisa, Mai era molto piccola e non ricordava che cosa ci fosse dall'altra parte. Così succedeva spesso che per spaventarla quando non voleva andare a letto o cose del genere, io mi inventassi delle storie sull'altra metà della casa. «Ogni cosa è capovolta», le dicevo. «Dormono sotto il letto e mangiano sulle lenzuola. Mescolano il cibo con gli scopini e spazzano con i messoli, scrivono con gli ombrelli e vanno a passeggio con le matite». A Maya quelle storie piacevano sempre di più, così ogni sera per convincerla a dormire dovevo inventarne una nuova. Una volta le raccontai che quel giorno avevano servito il tè a Jetha Moshai in una tazza e lui aveva perso la pazienza, l'aveva sputato fuori dalla bocca e aveva gridato: «Perché me lo servite in questo modo? Non sapete che il tè va bevuto dal secchio?» Il giorno dopo dovetti inventarne un'altra, così le dissi: «Oggi Jetha Moshai ha sgridato uno dei nostri cugini perché si è dimenticato di fare il bagno in cucina». Insomma, sciocchezze del genere. E quando finivo, facevo una faccia disgustata e dicevo: «Se non vai a dormire immediatamente, ti sbatto nel cortile al di là della parete, così anche tu farai tutto alla rovescia». Il che di solito bastava farle chiudere gli occhi e addormentarsi. Ma la cosa strana è che via via che crescevamo, anch'io cominciavo a credere alle nostre storie. Ormai eravamo grandi, andavamo a scuola e ci mettevamo seduti in giardino di fronte alla loro parte di casa e fissavamo la porta di Jetha Moshai cercando di immaginare che cosa succedesse all'interno. «È pomeriggio», diceva Maya, «perciò staranno facendo la prima colazione», o altre stupidaggini simili, e ci rotolavamo da ridere strettamente aggrappate una all'altra. Ma qualche volta, sai come succede, quando i nostri genitori erano arrabbiati o eravamo tristi per qualche cosa, avevamo l'abitudine di sederci là a guardare quella casa. In quelle occasioni ci sembrava un posto migliore e avevamo voglia di scappare dall'altra parte. Adesso però, proseguì con voce triste, scompigliandomi i capelli, «è tutto finito. Sono tutti morti e io non ho più storie da inventare né luoghi in cui fuggire». Thank you. Era questa dunque l'11ª puntata delle Linee d'ombra di Amitav Ghosh, nella traduzione di Anna Nadotti, letta da Elia Shilton per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli e Fabiana Crobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, riascoltabile su raiplayradio.it.